L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, vi dobbiamo raccontare i sette fatti più importanti dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 18 ottobre e che si è conclusa ieri 24 ottobre. I servizi, le interviste e i commenti, come nostra tradizione, sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. La guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan hanno sempre avuto un destino diverso sui giornali e anche direi agli occhi dell'opinione pubblica. Tanti per esempio reportage, tantissime le immagini, tante le discussioni attorno all'attacco a Saddam Hussein e poi alla lunga e complicata ricostruzione del paese, quanto sono sempre stati pochi i servizi e tutto sommato anche le riflessioni attorno all'Afghanistan, una terra che ci appare lontana, desolata, inaccessibile, storicamente tra l'altro inviolata non solo oggi dagli americani ma anche in passato da russi e inglesi. Eppure in Afghanistan ci sono molti soldati italiani impegnati che tra l'altro nelle ultime settimane sono bersaglio di frequenti attentati. Ce n'è uno anche sabato scorso, questo è il servizio proprio delle 13 di sabato di Valeria De Rosa. Quattro dei militari feriti sono già stati dimessi, questo dimostra la lieve entità delle lesioni riportate dai sette soldati italiani coinvolti, ma non toglie nulla alla gravità dell'attacco e alla crescente pericolosità in cui si trova ad agire il nostro contingente, ingaggiato sulla carta per una missione di pace, nei fatti costretto a operare in un teatro di guerra. Il racconto dell'attentato nelle parole del portavoce dei militari italiani, il capitano Antonio Bernardo. Questa mattina alle 7.40 locali, 5.10 ora italiana, nell'area di Herat un'autobomba si è fatta esplodere contro una colonna di mezzi italiani. L'unità di reazione rapida e il nucleo artificieri sono prontamente intervenuti e hanno messo in sicurezza l'area per favorire lo sgombero dei feriti, trasportati nell'ospedale da campo della base italiana di Herat, da dove nei prossimi giorni saranno sgomberati in Italia. Al momento in Afghanistan ci sono circa 2.400 militari italiani. Lo scorso 5 agosto a Kabul l'Italia ha ceduto alla Francia il comando della regione della capitale nell'ambito della missione NATO-ISAF. Un passaggio di consegne che ha determinato il graduale spostamento del contingente italiano dalla capitale afghana alla provincia di Herat, nell'ovest del paese. Per fortuna le conseguenze per i nostri soldati sono lievi, ma insomma non c'è dubbio che la situazione è preoccupante. Questa escalation di attacchi ai nostri soldati deve far riflettere. Per di più in una regione, quella di Herat, che è considerata tra le più tranquille dell'Afghanistan. Come se non bastasse, il giorno dopo, domenica, nuovo attacco ai nostri alpini. Sentiamo la cronaca di Andrea Carli e poi il commento di Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Un convoglio composto da militari italiani, spagnoli e afghani è stato oggetto di colpi di arma da fuoco nell'ovest dell'Afghanistan. Sono intervenuti in soccorso dei militari gli elicotteri che hanno consentito al corpo di raggiungere la base di destinazione. Secondo fonti militari, tra i militari italiani che appartengono al corpo degli alpini non ci sono stati feriti. Intanto è ancora poco chiaro il bilancio dell'agguato teso giovedì scorso da un gruppo di miliziani talebani contro due autobus carichi di afghani nel distretto di Maiwand, nella provincia di Kandahar. Il capo della polizia della provincia, Matullah Katei, ricorda che l'attacco ha fatto 40 morti. I talebani sostengono invece di aver ucciso 27 soldati. Uno degli autobus è fuggito e i talebani hanno sparato uccidendo un bambino e ferendo un uomo, ha spiegato Katei. I 50 passeggeri del secondo autobus sono stati presi in ostaggio, 10 sono stati liberati e 40 uccisi. Finora, ha concluso il capo della polizia locale, abbiamo ritrovato solo 6 corpi. Diverso il quadro fornito da un portavoce dei talebani, che ha detto che nel corso dell'operazione sono stati catturati e uccisi 27 soldati afghani, addosso ai quali sono stati trovati documenti ufficiali e che gli altri passeggeri sono stati liberati. Nella parte orientale del paese, vastissime aree sono ormai dominate e controllate dalla guerriglia che lotta senza quartiere contro il governo di Hamid Karzai. Nella zona occidentale, ad esempio nella provincia di Herat, dove sono situati i nostri militari, la maggioranza della popolazione è sciita, mentre i talebani sono sunniti. Questo naturalmente fa sì che la sicurezza del nostro contingente sia migliore rispetto a quella che avviene in altre zone del paese, ma non di meno i talebani cercano da molto tempo di penetrare in maniera efficace le zone di influenza sotto controllo italiano. Fortunatamente sino adesso, al di là di numerosi scontri che ci sono anche stati tra i commandos italiani e la guerriglia insurrezionale, questo tentativo talebano di penetrare con forza nell'area italiana non ha avuto ancora successo. Questo naturalmente non vuol dire che lo stato della tensione non sia elevatissimo. Una cosa è certa, la situazione in Afghanistan oggi è peggiore che in Iraq. Lo ricorda in questi giorni anche il generale americano Petraeus, ex comandante dell'Iraq fino a pochissimi giorni fa delle truppe americane, protagonista artefice del surge, dell'incremento delle truppe, che ha dato, bisogna dire, bisogna ammetterlo, i suoi frutti. Petraeus ha detto: l'Afghanistan ha meno prospettive di sviluppo rispetto all'Iraq, dove comunque ci sono petrolio, acqua, gas e altre risorse, quindi in Afghanistan più che ricostruire bisogna creare. Intanto la scia di attentati non si ferma in Afghanistan, anche lunedì giungono nuove cronache dal fronte. Sentiamo Cristina Balotelli. Ancora un attentato in Afghanistan contro le forze occidentali, rivendicato dai talebani. Oltre a due soldati tedeschi, obiettivo dell'attentatore suicida, sono morti anche 5 bambini afghani. Il terrorista si è scagliato contro i mezzi NATO a Kunduz, nel nord dell'Afghanistan. Non è chiaro se fosse a bordo di un'auto o di una bicicletta. Nel sud del paese intanto si combatte. Forze afghane e truppe a guida NATO hanno ucciso 34 insorti talebani in 2 giorni di combattimenti nella provincia di Helmand. Recentemente la NATO ha confermato la sua strategia in Afghanistan, insistendo però maggiormente sulla necessità di una risposta non solo militare, ma di sviluppo e ricostruzione del paese. Andrea Nativi, direttore di Rivista Italiana della Difesa. La guerriglia fa l'intero spettro di quello che dovrebbe fare, è un movimento del genere. C'è anche da dire che soprattutto nei mesi scorsi hanno agito a livello superiore, fino al livello di un battaglione, per esempio nell'attacco ai francesi, e questo è preoccupante. Sempre lunedì c'è poi un altro attentato impressionante, riguarda Gail Williams, 34 anni, doppio passaporto, inglese e sudafricano. La Williams faceva parte di un'organizzazione umanitaria. A Kabul, secondo le cronache dei testimoni, la sua auto viene fiancheggiata da 2 killer che sparano 7 colpi. Era cristiana e diffondeva la sua fede in Afghanistan, queste le motivazioni date all'omicidio dai talebani. E in questa settimana nera, nerissima per i militari italiani, c'è un grave lutto, arriva dalla Francia giovedì. Ci racconta tutto da Parigi Igor Fiatti. Non sono ancora chiare le cause dello schianto dell'elicottero dell'aeronautica militare precipitato nell'est della Francia. Di certo, per ora, c'è solo la tragica conta delle vittime. Come ha confermato a Roma il Ministero della Difesa, sono morti tutti gli 8 militari che erano a bordo del velivolo. E a piangere soprattutto la Puglia. 6 vittime erano infatti d'origine pugliese, 1 lombarda e 1 veneta. Stando alla ricostruzione, l'elicottero si stava trasferendo da Digione in Belgio per partecipare a un addestramento. Poi lo schianto letale, che è avvenuto poco dopo le 16 nel dipartimento della Mosa. Unanime il cordoglio delle massime autorità dello Stato, che hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. Dopo la tragedia in Francia arrivano subito le condoglianze del presidente francese Sarkozy e anche del ministro degli esteri Kouchner. Taranto intanto proclama il lutto cittadino. L'ottavo giorno. Domenica. Ormai ci siamo per entrare nell'ultima settimana di campagna elettorale negli Stati Uniti. Una campagna elettorale lunghissima, cominciata più di 1 anno e mezzo fa, del tutto imprevedibile, soprattutto perché dopo tanti anni non c'è né il presidente uscente né il suo vice in corsa. Quindi di fatto è stata una campagna elettorale a briglia sciolte, potremmo dire, con un nero e 2 donne, prima Hillary e ora la Palin, in corsa. Domenica, torniamo a 6 giorni fa, arriva un nuovo colpo di scena. Ce lo racconta Cristina Balotelli e poi il commento di Mario Platero. Barack Obama può essere un presidente che ci ispira e che ci unisce, che ha stile e sostanza e ha gli standard per essere un presidente eccezionale. In un'intervista all'NBC, Colin Powell ha dato il suo appoggio al candidato democratico, che il 4 novembre potrebbe diventare il primo comandante in capo di colore della storia americana. Powell ha parlato di Obama come di un personaggio di trasformazione perché, ha detto, abbiamo bisogno di un ricambio generazionale e Obama ha saputo capirlo. Amico di John McCain, repubblicano da sempre, al governo con Ronald Reagan e i presidenti Bush, l'ex generale si è detto deluso per come McCain ha condotto la sua campagna elettorale e per la direzione presa dal partito repubblicano. Ferito dall'appoggio di Powell al rivale, McCain in un'intervista ha evocato la possibilità di essere battuto nelle elezioni di novembre, mentre Obama si è detto più che onorato per le parole del grande soldato, grande statista e grande americano Colin Powell. John McCain McCain schiera al suo fianco Jolly idraulico e Barack Obama risponde schierando Colin Powell, generale, segretario di Stato in questa amministrazione Bush, segretario al Pentagono, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate nell'amministrazione del primo George Bush, dunque un repubblicano doc, ma anche un afroamericano, anche un politico moderato, dunque un colpo, quello di Barack Obama, quello cioè di aver ottenuto l'adesione, l'appoggio alla sua campagna di Colin Powell, che probabilmente potrebbe anche essere candidato per una poltrona nel prossimo gabinetto. Sono sicuramente molti, moltissimi i fattori in campo in questa campagna elettorale americana. A parte le discese in campo più o meno sorprendenti come quelle di Powell, ci sono poi i comizi sfiancanti in giro per l'America, un po' in tutti gli stati, ci sono le tantissime frequenti apparizioni TV. A proposito, sabato scorso la Palin ha fatto il record di ascolti al Saturday Night Live, ha dato spettacolo e poi si è esibita anche la sua sosia, davvero la somiglianza è incredibile. E poi c'è la messa in scena quotidiana, ossessiva, a volte persino schizofrenica dei sondaggi. Lunedì Obama torna nettamente in testa nel confronto con McCain. Sentiamo Cristina Ballotelli. Barack Obama riguadagna terreno sul rivale John McCain, distanziandolo di 6 punti. Lo dice l'ultimo sondaggio diffuso oggi dall'Istituto Zogby. Tra gli elettori abituali, secondo il sondaggio, il candidato democratico è al 50% e McCain al 44%. Ieri la distanza tra i due era di 3 punti. Ma si attende ancora di capire quale portata potrebbe avere tra gli elettori il sostegno a Obama dichiarato dall'ex segretario di Stato Colin Powell. Intanto si fanno ipotesi sulla futura amministrazione. La gravità della crisi economica, sociale e politica in cui si trovano gli Stati Uniti impone scelte bipartisan a partire dalla squadra. Così Obama punta sui repubblicani Chuck Hagel, senatore del Nebraska, possibile segretario di Stato, Tom Daschle in lizza come chief of staff alla Casa Bianca e Robert Gates, che potrebbe mantenere la sua carica al Pentagono sia con Obama che con McCain. Quest'ultimo, che ha sempre dichiarato che la sua amministrazione avrebbe una forte identità bipartisan, potrebbe puntare su Joe Lieberman, senatore indipendente, come segretario di Stato, in alternativa a Robert Zollick, presidente della Banca Mondiale. Warren Buffett, miliardario pro Obama, potrebbe invece andare al tesoro con McCain. Bisogna dire che è piuttosto difficile riassumere in pochi minuti tutto quello che accade in questi giorni di campagna elettorale. Però, insomma, alcuni fatti vanno citati. Per esempio, Obama sospende la campagna per volare alle Hawaii dalla nonna materna Madeline, gravemente malata. Obama ha anche detto di non essere sicuro che la nonna sarà ancora viva il 4 novembre, giorno del voto. Ma c'è anche chi, un po' cinicamente, si chiede se questa sia soltanto l'ultima mossa geniale della sua campagna elettorale. Intanto, dopo Colin Powell, c'è un'altra dichiarazione di voto importante a sostegno di Obama, viene direttamente dall'ex portavoce di Bush, Scott McClellan, che ha detto appunto che voterà per Obama. C'è poi un sito della Jihad che dice McCain presidente sarebbe meglio per Al-Qaeda. Naturalmente siamo liberi di dubitare dell'attendibilità di questa fonte e di quello che viene dichiarato. Ma torniamo a ragionare sui sondaggi, sempre che poi siano affidabili, questo lo scopriremo soltanto il 4 novembre. Questa è la situazione a 2 giorni fa nel servizio di Sergio Nava. Barack Obama allunga su John McCain, attualmente il senatore dell'Illinois viene dato vincitore su quasi tutti i fronti. Il dato generale offerto da Zogby vede Obama in vantaggio di 12 punti su McCain, 52% contro 40, ma a far correre un brivido sulla schiena del senatore dell'Arizona è un altro rilevamento che lo vede in svantaggio in 3 stati chiave della campagna, Florida, Pennsylvania e Ohio. 5 punti di vantaggio per Obama in Florida, 13 in Pennsylvania e ben 14 in Ohio, dove la leggenda vuole che nessun candidato repubblicano possa venire eletto se non ottiene la maggioranza anche nello stato del nord-est americano. A rincuorare i sostenitori di McCain ci pensa un solo sondaggio realizzato per conto dell'Associated Press, che assegna a Obama un solo punto di vantaggio. E nel balletto delle cifre si inserisce pure un'interessante statistica su come la stampa americana stia sempre più appoggiando Obama, con un rapporto di 3-1 rispetto a McCain, oltre a un dato che la dice lunga sulle ridotte chance del senatore repubblicano. Il 65% di coloro che votano per la prima volta dice di preferire il candidato afroamericano contro il 30% delle preferenze per il veterano di guerra. Lunedì. Da un po' di giorni è in corso una disputa, un duro scontro sul tema cruciale dell'ambiente, soprattutto per il futuro di tutti noi. E lunedì è una giornata importante perché si apre il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente europei in Lussemburgo. Prima però di sentire come la situazione si evolve giorno dopo giorno, riascoltiamo una scheda di Paolo Panceri che ci spiega l'oggetto del contendere tra Italia e Unione Europea. Gli obiettivi del pacchetto europeo sul clima 20-20-20 prevedono entro il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica, l'incremento dell'efficienza energetica del 20% e l'aumento, anche questo del 20%, della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. E veniamo alle cifre. Secondo un'elaborazione del governo, per il nostro paese i costi in 10 anni saranno di 181,5 miliardi di euro. Invece, secondo il commissario europeo all'ambiente Stavros Dimash, i costi per l'Italia, sempre in 10 anni, sarebbero tra i 95 e i 123 miliardi di euro. E chi sono i 9 paesi che, secondo il premier Silvio Berlusconi, condividerebbero le critiche italiane al pacchetto clima europeo? Capofila la Polonia, seguita da Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Bulgaria e Slovacchia. Il fronte dei sostenitori del piano europeo invece è capeggiato dalla Francia, che ha la presidenza di turno, seguita dalla Spagna. Più sfumata è invece la posizione della Germania, che da una parte vuole l'accordo entro dicembre, ma dall'altra è consapevole delle esigenze della sua forte industria. Al momento dell'apertura dei lavori dei ministri dell'ambiente in Lussemburgo, a tracciare la linea italiana è lo stesso premier Berlusconi, che parla naturalmente a nome del governo e si rivolge sia all'Europa sia alla posizione italiana, che sul tema apre un fronte di polemiche. Sentiamo Andrea Viali. Sul piano europeo contro l'inquinamento l'Italia non è isolata, lo assicura Silvio Berlusconi, che dopo lo scontro con Bruxelles sulle misure ambientali non risparmia critiche anche all'opposizione. Altri 9 paesi condividono la nostra richiesta di avere più tempo per valutarne meglio i costi. Non c'è quindi nessun isolamento dell'Italia in Europa, afferma Berlusconi, ma è l'opposizione che fa polemiche anche contro il proprio paese. Mentre il leghista Cota aggiunge: io sono anche per una valutazione di alcuni paesi che sono all'interno, per esempio, del WTO e quindi del sistema del commercio globale, pure non rispettano le norme che rispettano i nostri imprenditori. Per l'opposizione invece Berlusconi sbaglia a rompere con Bruxelles e ad allearsi con i paesi meno sviluppati. È giusto negoziare per tutelare le nostre imprese, dice Bersani, Partito Democratico, ma nel pacchetto sul clima ci sono anche opportunità. Non possiamo, al di là di richieste di flessibilità, mettersi di traverso su una politica che non solo è risparmioso di ambiente, ma ti sollecita anche a una crescita economica dal lato dell'innovazione. Tra i sostenitori più convinti del pacchetto ambientale c'è sicuramente la Francia di Sarkozy, che è anche presidente di turno dell'Unione Europea in questo momento. Il braccio di ferro dunque continua, come ci spiega il servizio di Sergio Nava, andato in onda mercoledì mattina. Le pacchetto clima sarà adopté. Approvazione del piano comunitario di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica e aumento delle rinnovabili entro dicembre, con una decisione a maggioranza qualificata e in accordo con l'Europarlamento. Parlando a Strasburgo, il presidente francese Nicolas Sarkozy non arretra di un centimetro rispetto alla tabella di marcia, minacciando anzi velatamente di forzare la mano in sede europea, saltando i possibili veti di Italia e Polonia, e definisce irresponsabile e drammatico abbandonare il pacchetto ambientale in conseguenza della crisi finanziaria. La mossa di Sarkozy irrita il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, che ricorda l'impegno politico strappato dall'Italia all'ultimo Consiglio europeo. Si va avanti se c'è l'accordo di tutti, non si va avanti se ci sono paesi che si sentono penalizzati da questi obiettivi. L'Italia sta già però trattando dietro le quinte con la Commissione europea. Nei prossimi giorni partirà un tavolo tecnico per fare chiarezza sui costi effettivi legati alle quote di emissione e proporre eventuali aggiustamenti. Il tutto mentre il premier Berlusconi ribadisce come a suo parere un paese manifatturiero come l'Italia non possa caricarsi di costi definiti irragionevoli. Ma la Danimarca, che nel 2009 ospiterà la conferenza ONU sul clima, ha definito pessima la richiesta italiana volta a ottenere una modifica al pacchetto ambientale. Ieri si è aperto a Bruxelles il tavolo tecnico tra Commissione europea e Italia sul pacchetto energia e clima, mentre è stato fissato per il 4 dicembre il voto all'Europarlamento sul pacchetto in questione, quindi vedremo soltanto tra qualche settimana come la disputa sarà andata a finire. Per chiudere questa pagina dedicata al clima, riascoltiamo invece l'intervento di Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, martedì durante il GR Extra Large di Radio 24. Cioè, al di là di quella che è la posizione europea, che potrà avere una azione certamente dimostrativa, bisogna che ci si ponga il problema completo a livello planetario, probabilmente anche con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, in modo da impostare le cose che possano avere un effetto reale sul clima del pianeta. La conoscenza che noi abbiamo attualmente non ci consente di prospettare un miglioramento effettivo. Sì. Professor Prodi, questi giorni si dice se l'Europa si batte per il clima ma non lo fanno poi altri paesi non serve a nulla. Va rivisto Kyoto, va studiato meglio quello che sta succedendo? Sì, appunto va trascurato l'effetto dimostrativo, virtuoso, ecco, dell'Europa, ma bisogna approfittare per coinvolgere tutte le nazioni e i continenti per uno sforzo comune. Nella terza parte dell'ottavo giorno, protagonista Roberto Saviano e la solidarietà attorno a lui. L'ottavo giorno. Martedì. C'è molta politica in questa puntata dell'ottavo giorno. Prima abbiamo parlato del clima, di tutto l'intrigo intorno a questa questione non certo secondaria, e poi la nostra nuova seconda incursione nella politica ci porta invece alla votazione finalmente decisiva per la Consulta. Quella di trovare un sostituto di Romano Vaccarella era una storia ormai che proseguiva stancamente e direi anche tra mille polemiche da un anno e mezzo e per 21 votazioni andate a vuoto. Negli ultimi giorni la questione poi si era inasprita sul nome di Gaetano Pecorella, già avvocato di Berlusconi. Invece nella serata di martedì finalmente si trova il nome giusto che mette d'accordo maggioranza e opposizione. Sentiamo da Roma il servizio di Vincenzo Miglietta e poi l'intervista a Giuseppe Frigo, nuovo componente della Consulta, fatta da Raffaella Calandra. Va oltre la maggioranza richiesta a Giuseppe Frigo. 690 parlamentari di entrambi gli schieramenti scrivono infatti il suo nome sulla scheda. La soglia necessaria si fermava a 572. Alla 22esima votazione il Parlamento ce la fa dunque ad eleggere un nuovo giudice costituzionale al posto di Romano Vaccarella dimessosi nel maggio del 2007. Un voto, quello di ieri sera, che suscita il vivo compiacimento di Giorgio Napolitano, che in un messaggio ai presidenti delle Camere scrive: l'elezione di Frigo ha coronato i vostri difficili sforzi per porre fine a un grave ritardo e per garantire lo svolgimento della insostituibile funzione di garanzia della Corte nella pienezza della sua composizione. Superato lo scoglio della Consulta, tuttavia, gli schieramenti guardano già alla vigilanza Rai. Gasparri, Popolo della Libertà, dice: dopo questo voto il nome di Orlando è archiviato, no al baratto, per noi non cambia nulla, fanno sapere Veltroni e Di Pietro. Ho trovato che non fosse particolarmente limpida l'operazione fatta contro Pecorella. Dovendo prendere atto che si cercava una persona fuori dal Parlamento, ho visto che non fosse una candidatura la mia in concorrenza con queste, perché non mi sarebbe assolutamente stato possibile accettare, io ho detto che ero a disposizione. La Consulta è chiamata a pronunciarsi su Lodo Alfano, la vicenda sul segreto di Stato per il processo a Buomarra, ancora quella sui dossier illegali. Avendo ricevuto un consenso così ampio, ritengo comunque di essere impegnato a soluzioni che non siano soluzioni radicali di parte, ma che siano serene, equilibrate e soprattutto illuminate dai principi costituzionali. Non c'è nessuna pronuncia che la preoccupa. Oggi si pensa a Lodo Alfano perché gli si dà un significato particolarmente forte dal punto di vista politico. Non esistono soluzioni di routine alla Corte Costituzionale. Dunque, il nodo della Consulta è stato finalmente risolto. Ora resta appesa la questione della vigilanza Rai. C'è sempre in pole position il nome di Orlando dell'Italia dei Valori. Vedremo come andrà a finire questa storia. Il discorso e le votazioni comunque riprenderanno martedì. Nella settimana politica che si è appena conclusa però succede altro ancora. Ad esempio domenica scorsa Veltroni, che oggi tra l'altro sarà al Circo Massimo per la manifestazione dell'opposizione contro il governo, rompe ufficialmente i suoi rapporti, i suoi legami con Di Pietro. Raffaella Calandra. Quell'alleanza è finita. Quindi è finita. Il giorno in cui Di Pietro ha preso e ha stracciato questo impegno. Walter Veltroni rompe gli indugi e dalle telecamere di Fabio Fazio taglia i ponti con l'Italia dei Valori. Di Pietro è molto lontano dalla cultura democratica del centro-sinistra, sferza il segretario del PD. Aveva sottoscritto l'impegno a fare un gruppo insieme, visto che aveva il numero dei parlamentari necessario per fare un gruppo parlamentare in proprio, è venuto da noi e ha detto: quell'impegno preso non vale più. Non si è fatto niente niente perché il PD è stato collaborazionista, sbotta invece Di Pietro. Noi in questi mesi abbiamo fatto un'opposizione seria, determinata e coerente. Paradossalmente, nel momento in cui si mette a fare quel che faccio io dal primo giorno, se la prende con me invece che prendersi con Berlusconi. Ci sarà comunque sabato al Circo Massimo l'Italia dei Valori, ma prima il suo leader mette le mani avanti sul sostegno a Leo Luca Orlando per la RAI. Chi non lo vota è un quacquaraquà, taglia corto Di Pietro. C'è poi una lunga, troppo lunga storia giudiziaria che si conclude mercoledì. Dopo 14 anni infatti di indagine e 4 gradi di giudizio, viene assolto a Palermo l'ex ministro della Democrazia Cristiana, oggi senatore dell'UDC Calogero Mannino. Inevitabili le ripercussioni e le riflessioni a livello politico. Ma sentiamo Mannino al microfono di Alessia Bivona. Vorrei dire la gioia, perché è un sentimento che si prova. Al termine di un lungo calvario dolorosissimo si può provare la gioia del riconoscimento della propria innocenza. Diversi pentiti l'hanno tirata in ballo e invece alla fine il risultato finale è quello di un'assoluzione. Cosa c'è che non va nella macchina dei collaboratori della giustizia? Non c'è uno solo di questi pentiti che sia stato in condizione di portare in aula il racconto di un fatto, di un rapporto che denotasse una mia complicità, una mia condiscendenza, una mia compromissione con la mafia. Comunque le dichiarazioni di Bandino sono servite per portarmi in carcere e per tenermi 23 mesi in carcere. Questo processo è stato costruito ed intentato per capovolgere una storia che invece è una storia di serietà, di continuità nel contrasto alla mafia. Mercoledì. Continuiamo a tenere desta l'attenzione su Roberto Saviano e la sua complicata vicenda. Infatti attorno allo scrittore di Gomorra, su cui incombono, ricordo, minacce di morte della Camorra, scatta una straordinaria solidarietà di massa. C'è un appello, ad esempio, firmato da alcuni illustrissimi premi Nobel, per esempio Dario Fo, Gorbaciov, Gunter Grass, Rita Levi-Montalcini. Ecco la voce di Dario Fo al microfono di Adriana Fracchia. Bisogna proprio che ci sia un'attenzione che in verità, parliamoci chiaro, insomma, sul piano dell'informazione di Stato soprattutto, non c'è stata come meritava, insomma, io sono subito aderito proprio per questo, perché non può essere soltanto qualcosa che rimane nell'ambito della difesa e dell'attenzione da parte del governo o dello Stato, bisogna coinvolgere tutti i cittadini, renderli coscienti di questa cosa. Nell'appello si legge: è un problema di democrazia, la libertà e la sicurezza di Saviano riguarda noi tutti come cittadini. Certo, sono ben convinto di questa asserzione. Il guaio terribile di Napoli e della Campania è proprio questo tirare a campare, questo non partecipare, non prendersi carico di quello che succede nella propria terra. Anche la gente comune però si mobilita a favore di Saviano, come avviene a Roma, alla Casa della Memoria, dove cittadini illustri, ma anche no, si alternano nella lettura di brani di Gomorra. Riascoltiamo in diretta dal GR delle 13 di martedì l'intervento di Vanessa Colangiuli. Sì, buongiorno dalla Casa della Memoria di Roma, dove in segno di amicizia e solidarietà Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, e i cittadini stanno intonando un unico coro, un viavai di gente che da questa mattina si alterna nella lettura di pagine dell'opera di Saviano, con la volontà di lasciare il loro contributo di coraggio e impegno civile. Ma sentiamo le testimonianze di chi ha letto e di chi si prepara a leggere. Volevo partecipare perché penso che sia importante che sente tutti noi insieme. È una guerra importante, è una guerra contro i giusti e contro la Camorra, e non deve rimanere solo, nessuno tocchi Saviano. Non sono cose sconosciute, non è che Saviano ha scoperto chissà che, l'ha soltanto messa in un libro. Lo Stato invece può fare delle cose istituzionali. All'appello Lottiamo per Saviano, lanciato da alcuni premi Nobel, si uniscono dunque le voci dei cittadini che liberamente fino a stasera alle 20 scelgono di far risuonare le parole di Saviano. Sono attesi tra gli altri anche Ascanio Celestini, Giovanna Marini e due licei della capitale. Sono molto contento di segnalare che le iniziative a favore di Saviano si stanno moltiplicando a vista d'occhio. C'è per esempio una maratona di lettura di Gomorra che verrà organizzata il 27 ottobre, quindi lunedì, a Cascina in provincia di Pisa. E intanto Saviano è stato invitato dalla giuria del premio Nobel per la letteratura a tenere un discorso all'Accademia di Svezia a Stoccolma in occasione dell'assegnazione del premio. Quindi un altro grande riconoscimento per lo scrittore napoletano, che sta compiendo indubbiamente un'opera coraggiosa di denuncia, oltre a realizzare libri molto belli. Ma di fronte alla mafia, alla camorra e all'andrangheta ci sono tanti altri modi per combattere. Radio 24 racconta ad esempio la storia di un imprenditore calabrese che da anni denuncia i tentativi di estorsione ai suoi danni e che per questo subisce anche delle minacce. L'imprenditore in questione si chiama Antonio De Masi, questa è la sua testimonianza. De Masi, è possibile conciliare legalità e impresa? È possibile, al sud non è solo possibile ma diventa esistenziale, o è meglio, è l'unico elemento che può far guardare avanti a un domani, perché altrimenti qui è una situazione che si involverà e porterà alla distruzione del sistema economico. Qual è la sua storia? Insomma, raccontarla può essere utile per così spingere anche altre persone a esporsi sul fronte della legalità, altri imprenditori a fare la loro parte. Guardi, la mia è una storia semplice di una famiglia che da 55 anni fa impresa in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, che ha circa 300 dipendenti e che si è sempre messa di traverso di fronte alle richieste estorsive della criminalità dell'andrangheta. Non da oggi, ma da oltre 25 anni noi siamo in prima linea, in un territorio complicato, difficile. Oggi siamo vivi, non siamo morti di mafia. Rischiamo però di morire di legalità, perché in un sistema in cui lei punta nella legalità come elemento e speranza di crescita per sé, per la sua famiglia, per le sue aziende, la mancanza di legalità rischia di farla morire, perché in un sistema dove la competizione non è una competizione basata su regole di legalità e di civiltà, ma su regole dove l'antistato va avanti, a questo punto uno diventa penalizzato nel vivere la legalità. Non si può lavorare se si è sponsorizzati dalla mafia e non lavorare se si è persone per bene. Noi torniamo tra poco, parleremo di scuola. L'ottavo giorno. Giovedì. È il tema caldo della settimana, la scuola, non ci sono dubbi. Le proteste e la riforma Gelmini sono numerose, distribuite un po' in tutta Italia, e riguardano sia le scuole sia le università. Nel nostro breve racconto però di questa settimana legata al tema della scuola partiamo da quello che succede mercoledì. Ci sono infatti prima le parole di Berlusconi e poi la risposta dell'opposizione. Vincenzo Miglietta e poi Elisabetta Fiorito. Non permetteremo che vengano occupate scuole ed università. Non arretra ma rilancia Silvio Berlusconi. Sulla scuola, spiega il premier, non faremo passi indietro, poi avverte, useremo la forza pubblica per far cessare ogni manifestazione che violi il diritto dei cittadini. I diritti dei cittadini, i cittadini studenti, i cittadini genitori, vanno fatti rispettare contro chi si opponga all'esercizio pieno di questi diritti. E Berlusconi ieri pomeriggio a Palazzo Grazioli ha visto il ministro dell'Interno Maroni. Al centro dell'incontro proprio le misure da adottare da parte delle forze dell'ordine in caso di occupazione di edifici scolastici. Il presidente del Consiglio sulla scuola ha parlato poi di bugie della sinistra. Una sinistra che ha trovato nella scuola un modo per far passare delle menzogne e portare una opposizione nelle strade e nelle piazze all'attività del nostro governo. Una critica infine al servizio pubblico televisivo diffonde ansia, ha detto Berlusconi, mostrando solo chi protesta. La realtà di questi giorni, ha sostenuto al contrario il Cavaliere, è quella di aule piene di ragazzi che intendono studiare. La reazione è immediata. Berlusconi minaccia di mandare la polizia all'università. L'opposizione insorge. Il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, risponde così alle parole del Premier. Parole che io considero molto gravi, parole che possono essere cariche di conseguenze, e l'impressione che il Presidente del Consiglio abbia voluto soffiare sul fuoco, cosa che un Presidente del Consiglio non deve fare. Ma Veltroni non è il solo a protestare. Per Massimo Donadi dell'Italia dei Valori, Berlusconi ha uno strano concetto della democrazia, perché vuole sedare proteste e critiche con azioni di forza. Per Pier Ferdinando Casini, UDC, il Presidente del Consiglio ha il dovere di non amplificare le tensioni. Più pacati i toni del segretario della CGIL, Guglielmo Epifani. Non oso neanche pensare che si possa rispondere a questo movimento con delle minacce. Chiedo al governo, di fronte a questo processo, di guardare il processo per come è e quindi di dare delle risposte positive, aprire dei canali di comunicazione e di dialogo. Il giorno successivo Berlusconi, che si trova a Pechino per un importante vertice tra i leader politici asiatici ed europei, parla di polemiche pretestuose attorno alla scuola e dice di non aver mai detto né tantomeno pensato di voler la polizia dentro le scuole. Intanto giovedì è un'altra giornata di proteste e di cortei, come ci racconta da Roma Andrea Viali. Scandendo questo slogan che ieri molti universitari romani hanno accolto la marcia indietro di Berlusconi sull'ipotesi di usare la polizia per sgomberare le facoltà occupate. In migliaia hanno sfilato in corteo dalla Sapienza al Senato, dove si sono uniti al sit-in degli studenti delle superiori che protestavano contro il decreto Gelmini all'esame di Palazzo Madama. Ma quella di Roma non è stata ieri l'unica manifestazione. Migliaia di studenti sono infatti scesi in piazza anche a Napoli, Pisa, Siena e Genova e in molte altre città, mentre si moltiplicano in tutta la penisola occupazioni e iniziative nei licei e negli atenei per dire no ai provvedimenti del governo su scuola, università e ricerca. E veniamo a quello che è successo ieri, un'altra giornata tesa, come si capisce da questo servizio di Andrea Viali. Dopo la marcia indietro sull'uso della polizia per sgomberare scuole e università occupate da Pechino, Silvio Berlusconi torna sulla protesta studentesca. Nei cortei organizzati dall'estrema sinistra e dai centri sociali ci sono piccoli gruppi di facinorosi che hanno anche il supporto dei giornali, attacca il Premier, dichiarazioni che Walter Veltroni preferisce non commentare, tanto presto le smentirà, ironizza il segretario del PD. Ho la pelle dura, sono abituato agli insulti, la controreplica di Berlusconi. Intanto, mentre in tutta Italia dilagano le proteste, sembra fallito sul nascere il tentativo di dialogo fra il ministro dell'istruzione Gelmini e le associazioni degli studenti, molte delle quali, di fronte al no del ministro a modifiche dei provvedimenti su scuola e università, hanno abbandonato il confronto. Noi abbiamo solo consegnato una lettera dove chiediamo il ritiro immediato di questi provvedimenti, perché non si può invocare il confronto a 3 giorni dall'approvazione nel Senato di un decreto. Lei non ci ha dato la disponibilità a ritirare i provvedimenti e per noi l'incontro si è interrotto. Con una nota al termine degli incontri con gli studenti invece il ministro Gelmini ha ribadito la necessità di cambiare perché ha detto per l'istruzione in Italia non si spende poco ma si spende male. Venerdì. E chiudiamo con l'economia e con le borse che ieri fanno registrare pesanti perdite, come spiega in diretta nel GR delle 19 di ieri Paola Nania. Una giornata particolarmente difficile, iniziata con le borse asiatiche con perdite per Tokyo intorno al 10% e continuata negativa per le piazze europee. La chiusura: Parigi perde il 3,54%, Francoforte il 4,96%, Londra il 5%, sulla stessa scia praticamente Milano, MIBTEL meno 4,96%, S&P MIB meno 5,61%. Da segnalare da un lato il petrolio che continua a scendere nonostante l'OPEC abbia deciso un taglio alla produzione, l'euro che rimane particolarmente debole sul dollaro, in questo momento a 1,26,80, e poi dicevi anche tu c'è l'OCSE che lancia un allarme per quanto riguarda il rischio recessione prolungata per diversi paesi. Allora sentiamo il servizio. Raffica di interventi in vista per il Fondo Monetario Internazionale, che riprende il proprio ruolo naturale di assistenza ai paesi in crisi nel bel mezzo dell'onda lunga della tempesta finanziaria. L'FMI starebbe negoziando, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, un pacchetto di prestiti miliardari, il maggiore dei quali appena annunciato riguarda l'Islanda, paese a rischio bancarotta dopo la paralisi che ha colpito il suo sistema finanziario. Il prestito d'emergenza consentirà a Reykjavik di stabilizzare la valuta e di garantire supporto allo sviluppo di un sistema finanziario più solido, ha detto il Premier Garde nel corso di una conferenza stampa. Questo finanziamento non sarà però un caso isolato. Altri paesi starebbero negoziando prestiti con l'FMI, che sarebbe pronto a varare un pacchetto di aiuti straordinario a favore dei mercati emergenti attraverso l'erogazione di prestiti della durata di 3-6 mesi, che avranno un importo fino a 5 volte il valore dei contributi che questi stessi paesi versano al fondo. Il tutto mentre l'OCSE lancia l'ennesimo allarme recessione. Molti paesi ci finiranno, anche se una depressione economica globale come quella degli anni 30 è altamente improbabile. Ad affermarlo in un'intervista è il capo economista dell'OCSE, Klaus Schmidt-Ebel. Come ci capita ormai da diverse settimane, le notizie attorno all'economia sono tantissime e spesso di segno negativo. Il tono è decisamente preoccupato e preoccupante. Arrivano ad esempio i dati negativi sulle vendite fornite da Confcommercio, ma soprattutto pesano le parole del governatore della Banca d'Italia. il servizio di Valentina Furlanetto. Non pronuncia la parola temuta, recessione, ma a tutti è chiaro quando il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi in audizione in Senato rileva segnali negativi per i prossimi trimestri che quello è lo scenario. Al centro delle preoccupazioni di Via Nazionale, le famiglie e le imprese. Famiglie e imprese sono colpite sia direttamente per la perdita di valori dei titoli Lehman che esse detengono, sia indirettamente a causa delle prospettive di una restrizione del credito conseguente alle tensioni finanziarie del momento. L'esposizione dei risparmiatori al rischio Lehman assume varie forme. Nei giorni successivi al fallimento della Lehman alla fine di settembre, il valore dei titoli Lehman delle famiglie depositati in custodia presso le banche era pari a circa 1,5 miliardi, aggiungendo i titoli in gestione patrimoniale e quelli del portafoglio dei fondi comuni l'ammontare sale a circa 2 miliardi. Sul fronte derivati, infine, il governatore ha messo in allerta sull'uso di questi strumenti, armi a doppio taglio li ha definiti, sottolineando che quando vengono offerti al pubblico deve essere rafforzata la protezione del contraente debole, ossia del consumatore. Prima di chiudere dobbiamo rendervi conto dell'ottava notizia della settimana. Questa volta vuole essere un omaggio a Vittorio Foa, scomparso lunedì all'età di 98 anni. Il servizio di Chiara Romanello. Questa difesa intransigente della libertà mi è rimasta fin da quando ero ragazzo e mi è rimasta ancora adesso. Era ancora un ragazzo Vittorio Foa quando finì in carcere durante il fascismo. Ne uscì nel 1943 in tempo per unirsi ai partigiani. Poi la partecipazione alla Costituente nel 1946 nelle fila del Partito d'Azione e gli anni da segretario della FIOM-CGL. Un legame con gli operai che ha ricordato così l'anno scorso al microfono di Daniele Biacchessi. Io ho visto nelle lotte operaie un elemento di sviluppo, di impegno, di partecipazione alle quali ho creduto e continuo a credere. Una vita a sinistra che continuò nel Partito Socialista fino al 1964 e poi nel Partito di Unità Proletaria negli anni 70. Nell'87 fu eletto senatore nelle liste del Partito Comunista, pur dichiarandosi indipendente, solo 5 anni dopo abbandonò la politica attiva. L'ultima apparizione pubblica nel 2002 al fianco dei Girotondini a Roma. Non vi vedo ma vi sento, disse, e voi mi date speranza. Finisce qui questa puntata dell'Ottavo Giorno. Ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it a cui potete scriverci. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è la settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.